Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Dottor Mazza, buongiorno, ma quanto è simpatico lei. Lei è, io mi diverte troppo, veramente mi piacerebbe averla come amico, così proprio come per dire delle cose serie e delle cazzate. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Sì, altro che l'occhio della tigre, qui è l'occhio dell'Agenzia delle Entrate, che dovrebbe essere un pochino più attento. Mi pare che abbia perso di vista un po' qualche situazione nel bergamasco. Perso di vista non è male. Ecco, perché un'altra freddura come quella dell'altro giorno sull'INPS. Eh sì, perché l'INPS manda in pensione il PIN dispositivo, ve l'abbiamo detto, ma ve lo ripetiamo, perché ci piace ripetere questa freddura. Dal 1 di ottobre l'INPS non rilascia più il PIN dispositivo. Contratto da comica è pronto, vado a lavorare con Leonardo Manera. Ma prego, agevoliamo la notizia del giorno. E guarda, con il cuore un pochino a pezzi, perché sai che quando ci sono questi eventi il mio cuore, come dire, normativo tributario sanguina è addolorato. Allora hanno pizzicato, cioè hanno finalmente visto, esatto, da hanno dire. Finalmente pizzicato, sottolineerei, un ottico che per 16 anni però si spacciava per oculista, e già fin qui va bene, ci sarebbero n reati. Comunque va bene, oltre 2000 visite a 600 pazienti, ma qui viene, sì, diciamo, il clou: senza rilasciare fattura. No, aspetta, lui rilasciava tanto di diagnosi, ricette per farmaci, prescriveva esami specialistici e l'onorario previsto per ogni prestazione era un po' flat, 50 euro a visita, qualunque cosa dovesse fare valeva 50 euro. Sì, ma la notizia viene precisata così, 50 euro a visita, rigorosamente, mi verrebbe da dire religiosamente, come le pagine di norme e tributi, sì, religiosamente senza fattura. Ecco, però finalmente la Guardia di Finanza si è messa gli occhiali, quella di Bergamo, e ha bussato alla sua porta, dicendo: ma signore, mi scusi, lei ha intenzione di continuare così oppure vogliamo metterci in regola? Dunque, risulterebbe che tra il 2004 e il 2020 questo signore avrebbe fatto oltre 2000 visite, i pazienti calcolati sono 632 e dal 2008... non risultano a suo carico dichiarazioni, ecco, dei redditi. Allora, va bene la sua scelta di mantenersi anonimo agli occhi del fisco, ma quello che ci stavamo chiedendo con Mauro Meazza prima della partenza della nostra diretta è: ma tra queste 2000 persone che lui ha potuto, no, più di 600 pazienti che ha potuto visitare in queste 2000 visite, ma non ce n'era uno che gli ha chiesto la fattura, che si è insospettito di questo comportamento, che avesse un'assicurazione privata con la quale appunto dovesse interagire per scaricare l'importo della visita oculistica? Ma è strano. Insomma, è strano. Il sistema della connivenza è bisognerebbe curioso, trattandosi di un oculista, vederci chiaro, anzi di un finto oculista. È proprio vero, come ha detto l'ascoltatore, che sei simpatico, insomma, che lui vorrebbe tanto come amico, ma sei solo amico mio, qua non ti cedo volentieri. Lo ringrazio molto e rassicuro tutti, non è un parente, quindi non l'ho fatto per lucrare, magari, che sa, un aumento di stipendio, qualche particolare prebenda qui nel gruppo 24 ore. Di che parliamo oggi? Di bello? È mercoledì, non te lo ricordi? Ah, caspita, è vero, come dimenticare. Oggi parliamo di lavoro. Parliamo di lavoro con l'ausilio degli specialisti di INAP. Nella prima parte faremo un punto invece sul lavoro dei giovani quando tentano di mettere un piede in azienda attraverso la modalità del tirocinio dello stage, ma anche gli stage stanno crollando nel nostro paese. Ha fatto una ricognizione la Repubblica degli stagisti e ve le racconteremo. Per quello che riguarda invece l'indagine INAP che vi presentiamo oggi, parliamo un po' delle difficoltà che hanno attanagliato tutte le famiglie italiane durante i mesi di lockdown. Lo sapete, uomini e donne, lavoratori e lavoratrici che hanno dovuto praticare il regime dello smart working con un po' che difficoltà. Ma l'INAP che cosa ha scoperto? Il rientro al lavoro come è stato per queste persone? È stato, diciamo, un po' a discapito, cioè sono riemerse le questioni di genere che sono note e sembrano addirittura essersi un pochino riacuite, verrebbe da dire. Ma presentiamo in anteprima una ricerca, quindi se volete poi interagire con noi, i numeri di telefono sono quelli abituali: Oggi, come vi abbiamo detto, parliamo di lavoro in diverse accezioni. 800 24 00 24 è il nostro numero verde, 349 238 6666 è il numero per inviare SMS o WhatsApp. Dall'altra parte del vetro, vigili e attenti come sempre, Claudia Schiattone, e davanti a Claudia, proprio al di là immediato del vetro e davanti a questa panoplia di tasti e tastini, Gianmarco Ferronato, che rende possibile questo miracolo, le nostre voci che vi arrivano in diretta. Abbiamo un GRR, un giornalino radio del risparmio? Ma non solo ce l'abbiamo, parte con una notizia che ti piacerà quasi quanto quella dell'oculista invisibile al fisco. Non mi è piaciuta. Aveva il mantello di Harry Potter, quello che rende invisibili. Via. E adesso, signore e signori, il giornale radio del risparmio. No, qua, cioè, tu mi stai dicendo che io devo aprire l'Atlante geografico come quello del lavoro di INAP della settimana scorsa e non trovo più le isole Cayman? Ma no, stiamo no, scherzando? No. Allora, aspetta, devi sapere, ci sono tante liste nere, tante, insomma, più liste nere dal punto di vista del fisco. C'è la lista nera nazionale della nostra agenzia delle entrate, c'è la lista nera dell'Unione Europea, c'è la lista nera che fa l'Ocse. Poi a volte, per darsi un tono, si dice che sono blacklist, però la sostanza è la stessa. Allora, che cosa è successo? Che la Unione Europea ha deciso che le isole Cayman, che sono tradizionalmente considerate paradiso fiscale, direi quasi per antonomasia, sono un arcipelago nel Mar dei Caraibi, ecco, non saranno più nella blacklist dell'Unione Europea, quindi non saranno più fiscalmente non cooperative. Questo è il giudizio che si dà, cioè, insomma, se tu chiedi: ma per caso quel finto oculista di cui si parlava esatto, non è che aveva dei soldini da voi? Ecco, le Cayman ti rispondono, dice l'Unione Europea, adesso ti rispondono, sono diventati più cooperativi. Invece hanno detto, sempre il Consiglio dell'Unione ha detto, invece Anguilla e Barbados, che erano nella lista nera, ne erano uscite perché si erano mostrate cooperative, adesso ci rientrano perché non si sono comportate bene. Quindi, di nuovo dietro la lavagna, verrebbe da dire, ovviamente una lavagna nera. Tutti i particolari naturalmente in cronaca sul Sole 24 Ore di oggi, tra l'altro. Allora, invece volevo raccontarti che l'INPS segnala un nuovo, l'ennesimo tentativo di truffa tramite mail a sua firma, e quindi ieri con una comunicazione l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha voluto avvisare tutti i suoi utenti di fare attenzione a questa nuova mail di phishing che utilizza il nome INPS per ingannare i destinatari appunto del messaggio e indurli ad aprire questo file allegato che contiene un agente virale. Quindi fate molta attenzione se vi arriva una comunicazione IMSS che, come dire, vi puzza un po', che può essere un po' anomala. L'oggetto della email, come il nome dell'allegato, precisa proprio l'IMSS in questa nota che richiamavo poco fa, può variare, per cui si invita a diffidare di queste comunicazioni ignorando mail di cui non è possibile accertare l'origine. Non aprite allegati dei quali non avete certezza appunto della provenienza. Cashless, smartphone, pagamenti veloci. Ci sono delle belle notizie. Ma sai che dovremmo forse trovare anche dei termini nazionali, perché siamo stati più reattivi del resto del mondo noi in Italia. E l'ho letto... cashless, meno contante, senza contante, non utilizziamo il contante. Smartphone è il telefonino, però quello di ultima generazione. Furbo. Sì, quello che ti fa fare tante cose, ti fa anche vedere, che so, l'internet, anche sentire i podcast di Radio 24, vai sul sito www.radio24.it oppure ti scarichi la app e così puoi sentire Due di Denari pure non in diretta ma in differita. Ed è gratuito, pensate? È incredibile tutto questo, ma al netto di tutta questa generosità, la notizia, e ce l'ha fornita oggi Pierangelo Soldavini dalle pagine Sole 24 Ore, che l'Italia è andata meglio degli altri paesi, perché durante l'emergenza, la pandemia, il lockdown, le quarantene e così via in tutti i paesi, c'è stata una gelata anche sui pagamenti digitali. I pagamenti digitali sono crollati del 22% nei primi sei mesi del 2020, lo dice McKinsey. In Italia invece le transazioni digitali sono sì calate, ma del 6,3%, quindi un calo che è addirittura inferiore al calo che abbiamo registrato per i consumi. Quindi in un certo senso c'è un aumento di interesse, di curiosità, di utilizzo, tale che ha frenato la caduta. Allora, senti, ieri, come sai, dal Senato c'è stato il via libera al decreto agosto. Ci sono tante misure dentro, tante riguardano anche il mondo del lavoro, magari adesso pescando di fiore in fiore, come dice Mauro, ve ne daremo alcuna, ma a me ha colpito questa e io vorrei che tu, Mauro, me la spiegassi un po'. Perché? questo provvedimento ha autorizzato le vendite in liquidazione per tutti gli esercizi non alimentari che abbiano scorte da smaltire a causa del lockdown. Sappiamo che tanti negozi sono stati chiusi, l'abbigliamento poi ad un certo punto ha potuto anche riaprire, soprattutto quello per bambini, ti ricorderai, no? È stata una delle prime misure. E però insomma tanti sono stati chiusi e quindi ci sono tante eccedenze da smaltire. E allora queste scorte da smaltire che si sono arricchite durante il lockdown potranno essere rimesse in vendita appunto con queste vendite in liquidazione che potranno durare 6 settimane e dovranno partire entro 60 giorni dalla fine dello stato di emergenza. Allora, lo stato di emergenza è stato prorogato fino fino alla fine di gennaio. Esattamente. E quindi questi si devono tenere ancora ste scorte fino alla fine di gennaio. Ma che significato ha sto provvedimento dentro il decreto agosto? Ma probabilmente questo è stato scritto prima della previsione di allungamento dello stato di emergenza e quindi l'idea era di arrivare nelle giornate di dicembre. Perfetto, quindi da gennaio in avanti potremo comprare gran maglioni di cashmere insieme al costume per andare in bagno, perché questi intanto avranno un accumulo di roba che non finisce più, poveracci. Ma aspettiamo, Deborah, io te lo dico sempre, aspettiamo la Gazzetta Ufficiale, perché il pasticcio potrebbe anche essere superiore a quello che stai dicendo tu. Quindi arriviamo con un testo definitivo in Gazzetta Ufficiale, poi lì allora vedremo bene quando e come si potranno mettere in vendita queste scorte, giacenze che sono residuate dal periodo e che sono diventate quarantena. Delle montagne. A proposito di pasticcetti, raccontiamo l'ultimo. Questo tanto si verifica ogni anno, è una grande tradizione, un evergreen, una grande certezza per noi tutti, e c'è la consulta dei CAF che si lamenta che non ha più soldi per andare avanti, e quindi se tu ci dovessi andare domattina per farti rilasciare il tuo ISEE, non so se te lo possono fare. Sì, perché come segnaliamo tutti gli anni, e i CAF poi lo segnalano spesso anche qui a Due di Denari, le mansioni da svolgere aumentano, ad esempio gli ISEE, le certificazioni ISEE, ma poi le dichiarazioni dei redditi, le varie dichiarazioni, i vari ausili che possono venire dai centri di assistenza fiscale aumentano di anno in anno, ed ecco che i CAF lamentano appunto che non ci sono sufficienti risorse. E allora anche quest'anno segnalano che dal 9 ottobre insomma di fatto finirebbe i fondi. Uso il condizionale perché poi di solito in extremis arriva qualche correzione e tutto prosegue fino diciamo al prossimo anno. Senti, prima del nostro sportello reclami devo leggerti questo messaggio su WhatsApp. Magari trovassi qui a Lecco un oculista che fa la visita a 50 euro senza ricevuta. La visita qua costa minimo 120 euro, immagino senza ricevuta lo stesso, ma mannaggia. Vabbè, dillo a Due di Denari. Dillo a Due di Denari. Beh, vi racconto la mia esperienza. Mio papà ha richiesto mesi fa, un anno fa, circa un fido pensionato, gliel'hanno concesso solo se faceva un'assicurazione vita, che si chiama protezione conto. E l'ha fatta, 18 euro all'anno. Mio papà a giugno è mancato, ora abbiamo richiesto all'assicurazione di coprire il fido, 3.000 euro, ci hanno risposto che l'assicurazione copriva solo se il contraente avesse avuto un infortunio. Ma mio padre era pensionato, perché la banca gli ha fatto un'assicurazione infortuni e non sulla vita? Ora, essendo noi eredi, dobbiamo pagare questo fido. Secondo me è una truffa. Michele da Torino. E infatti l'antitrust ogni tanto interviene multando le compagnie, le banche o le finanziarie che erogano prestiti e ci agganciano anche delle formule assicurative che non hanno nessuna pertinenza con il finanziamento erogato. L'ultima in ordine di tempo è stata la multa inflitta dall'antitrust a Compass proprio per aver fatto esattamente quello che ha raccontato l'ascoltatore. Per cui fate attenzione, se la banca vi dice intanto che l'assicurazione è obbligatoria rispetto al finanziamento, sappiate che non lo è. Una garanzia per voi, certamente anche una garanzia per la banca che si tutela dall'eventuale insolvenza del contraente, però non è obbligatorio. Andate a vedere bene nel dettaglio che cosa vi propongono. E quali sono le coperture, le garanzie che vengono coperte, perché in questo caso veramente sembra un caso proprio di mala attribuzione, quindi o chi ha proposto l'assicurazione non si è spiegato e quindi non l'ha fatto capire, o proprio non si voleva spiegare, verrebbe da dire. Spiace, perché purtroppo poi queste cose aumentano, la diffidenza di cui abbiamo parlato ieri. Bravo. Nella nostra puntata di Alfabeto del Risparmio, che potete ritrovare, guarda un po', sempre sul sito di Radio 24, nella nostra sezione. E adesso apriamo con il lavoro e sentiamo un po' come se la passano i ragazzi. Parliamo di lavoro. Beh, non se la passano tanto bene, soprattutto quelli che avrebbero l'ambizione di cominciare a mettere un piedino in un'azienda, magari attraverso la formula del tirocinio e dello stage, ma il lockdown, insomma, ha messo in seria difficoltà anche questo istituto, questo strumento, come ci racconta la amica Eleonora Voltolina, fondatrice e direttrice della testata giornalistica online Repubblica degli Stagisti.it. Eleonora, buongiorno e bentrovata. Buongiorno e buongiorno a tutti. Che cosa hai scoperto? Allora, noi abbiamo scoperto che gli stage nel 2020 sono crollati, si sono letteralmente dimezzate le opportunità a disposizione dei giovani per mettere il primo piedino, come dicevi tu Deborah, nel mondo del lavoro. E il crollo è particolarmente significativo perché ci sono dei dati appunto che vanno a confermare quello che non poteva essere altrimenti, verrebbe da dire: calo della produzione industriale, calo dei consumi, calo delle opportunità anche formative, perché poi di questo stiamo parlando, è così Voltolina? Esattamente, diciamo che la notizia appunto non sorprende, ma fa impressione vederla confermata dai dati ufficiali che noi della Repubblica degli Stagisti siamo riusciti a ottenere dal Ministero del Lavoro. Quindi veramente il calo è stato del 48%, stiamo parlando di dati. Eleonora, aspetta lì perché ti sentiamo malissimo, magari posiziona un po' meglio se possibile la bocca vicino al telefono. Mi sentite no, aspetta bene lì, perdiamo un po' di tempo noi adesso. Richiamiamo, e ma i numeri i numeri li possiamo anticipare, sì. Intanto che richiamiamo Eleonora Voltolina. Allora, il calo nel primo semestre del 2020 degli stage, meno 48%, i numeri effettivi sono 96.376 stage nel 2020 contro stesso periodo del 2019 185.152, quindi effettivamente un dimezzamento delle opportunità di formazione, di completare una formazione che gli stage riescono a garantire. Credo che la telefonata si stia ripristinando con difficoltà, adesso non riusciamo a capire per quale motivo appunto non ha una buona qualità. Questo però è un peccato, parlavamo del piedino per entrare in azienda, già spesso commentiamo tutte quelle modalità che possono essere utilizzate nel rapporto fra impresa, naturalmente giovani generazioni, per fare le prime esperienze formative, stage, tirocini, staffette generazionali, apprendistato. Mauro, questo naturalmente è un peccato, ma d'altronde non potevamo forse aspettarci niente di diverso per come è andato il mercato del lavoro, con le aziende che hanno dovuto fare i conti con questa pandemia, una crisi micidiale senza alcun precedente. È chiaro che magari l'ultimo pensiero è quello di dare un'opportunità ai giovani. Eleonora, abbiamo menato il campo per l'aia, nel frattempo appunto adesso ti sentiamo molto meglio. Abbiamo fatto noi il raffronto fra i numeri attuali e lo stesso periodo di tempo dello scorso anno, registrando questo dimezzamento, meno 48%. Dal punto di vista delle aziende che sono state più in difficoltà ad accogliere ragazzi con questa formula, avete fatto una ricognizione anche su questo, una ricognizione qualitativa, diciamo? Esattamente, noi siamo riusciti anche a dare diciamo una fotografia più dettagliata. Il maggior calo si è verificato nel settore degli alberghi e dei ristoranti, e questo ovviamente riguarda anche il fatto che sono stati chiusi i trasporti, sono state chiuse le attività turistiche, e quindi tutto il settore ricettivo turistico ha subito veramente un forte impatto. A sorpresa invece la pubblica amministrazione, quindi gli stage nell'istruzione, negli uffici pubblici, sono quelli che sono diminuiti di meno, però io penso che questo abbia anche a che fare col fatto che in questo grande gruppo di attività ci sono anche gli ospedali e i laboratori di analisi cliniche. Però insomma, quindi il pubblico ha tamponato le difficoltà del privato. Un pochino. Poi altri dati interessanti sono che a livello anagrafico questo calo è tra virgolette democratico, cioè non c'è un calo maggiore tra le opportunità per i giovanissimi oppure per i giovani oppure per i più grandi. Però noi pensiamo che sia interessante far notare che c'è un piccolo calo delle opportunità per le donne, quindi per le stagiste femmine,